Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Aule Pollaio. Cos'è? Un alternativo, però è un Aule Pollaio, cioè è una cosa molto sul pezzo, cioè? È scoppiato il casino delle aule affollate. Pensavo ai pollio proprio, perché infatti avevo un piccolo suggerimento per tutti voi a casa. Volete ricreare il suono esatto di un pollo che svolazza cosa nel c'entra? Cortile? Vabbè. Prendete un pacchetto di sigarette, svuotatelo per metà e dopodiché agitatelo davanti al vostro microfono. Avrete un pollo che svolazza nel cortile, sentite. Bello, bello sto trucco. Sì, e si sente svolazzare così anche nelle aule italiane. Sì. Adesso il casino è successo perché dei genitori, insieme al Codacons, hanno chiesto al ministro Gelmini un risarcimento per danni esistenziali per i bambini che sono cresciuti appunto nelle aule sovraffollate. Non con i polli nelle aule. Però 2.500 euro per bambino, un totale di 50.000 bambini interessati. Fai un po' il calcolo. 2.500 per 50.000... sono 125.000, no, 12 milioni. Sono 125 milioni. Sì, no, forse 125 milioni di euro, giusto, che sono pari a quante vecchie lire, giusto per spaventarci. Non lo so, aspetta, perché potremmo chiedere al bambino Premier, lui i calcoli li sa far bene. 60 miliardi di vecchie lire, quindi 30 miliardi di euro attuali. Quindi non ci sono dubbi. Ma forse 3 miliardi di euro. No, Presidente. 60 miliardi di lire sono 3 miliardi di euro. No. 3 miliardi di euro sono 6 mila miliardi di lire. Sono 30 miliardi di lire. 60 miliardi di euro. E ora, bambini, ricreazione. Mai divertente. Ecco. Esatto. Bravo bambino Alberto, l'autoconsapevolezza prima di tutto. Che voce fastidiosa. Vabbè, per una volta facciamo un'intervista seria, ragazzi. No, per una volta no. Dai, il problema delle aule pollaio riguarda anche questo asilo, giusto? Giusto. Qui infatti siamo 48 bambini in 48 metri quadrati. Ecco. Chi se ne frega. Quindi manca un metro quadrato quasi a bambino per stare nella legge. Ma cos'hai, tutte le tabelle? Tutte le tabelle, abbiamo parlato prima, Kappa. No, ma io non so niente di questa roba, ditemelo voi. Però visto che il ministro bambina Gelmini dovrà dare un risarcimento alle famiglie dei bambini come te costretti nelle aule pollaio e questo risarcimento sarà così commisurato ai danni esistenziali causati dal sovraffollamento, vorremmo sapere da te quali sono i danni esistenziali che hai riscontrato tu. Ma che lingua stai parlando? Lascia stare. Allora, insomma, hai subito dei danni esistenziali a causa dell'aula troppo affollata? Così è chiaro? Vabbè, per forza. Cioè, io sono il massimo esperto di danni esistenziali che puoi trovare in giro, Quello sì, va bene. Con me sui danni esistenziali sfondi una porta aperta. Qui se mi metto a fare la lista di tutti i miei danni esistenziali, qui chiedo l'indennizzo, E qui la bambina Gelmini, se lo chiedo io, è meglio che acceda un mutuo, Sennò qui non riesce neanche a pagarmi. Vabbè, ma però i tuoi danni esistenziali di default non valgono. Cosa vuol dire? Devono essere danni esistenziali provocati dal sovraffollamento, dalle aule pollaio, non da tare genetiche o le tue paranoie personali che esistono già da prima. Ma una volta che c'è un risarcimento in ballo, tutti i danni, no? Anche la scoliosi, la dermatite, la lingua infiammata, quella roba lì vanno a finire nella lista, Ma ho capito. Stiamo lì a fare distinguo. Ti butti sotto la macchina allora per farti pagare dall'assicurazione. Tipica cialtronaggine italiana. E pensare che i tuoi sono pure degli onesti cittadini di sinistra, pieni di buoni valori. Sì, ma adesso il ministro è la bambina Gelmini. Quindi va tutto bene per mettere in difficoltà il governo, no? Sì, vabbè, ma a me sembrano solo degli scrocconi. Se il bambino Brad Pitt ha subito dei danni, è giusto che venga risarcito alla fine. Il bambino Brad Pitt ha subito dei danni quando? Quando si travestiva da pollo nei ristoranti? Cosa stai dicendo? Scusa, Brad Pitt prima di sfondare si vestiva da pollo nei ristoranti del pollo fritto. Sì, ma in questo caso Brad Pitt è il bambino Alberto, no? Ma Tito! Brad Pitt! Ma allora cosa sta succedendo? È un po' di confusione qui. Brad Pitt, Alberto, non si capisce più niente. Cosa c'entra Alberto con Brad Pitt? Alberto. Ho capito. Certo. Anche qui tra poco ci travestiamo da Pulcini. Perché sembra di stare in una fabbrica di polli questo asilo. Io mi sento quasi un pollo. La voce da pollo ce l'hai. Allora dici che potrei andare bene a fare il pollo? Secondo me sì. Come Brad Pitt? Sì. Però no. Perché Brad Pitt è Brad Pitt. Tu sei il bambino Alberto, Albertazzi. Sulle donne, bambino Albertazzi, non fai lo stesso effetto di Brad Pitt. Vabbè, ma vestito da pollo anche Brad Pitt Cosa? Non è che... Vabbè, insomma, comunque, dai, torniamo veramente al discorso serio. Bambini piccoli, che voi siete bambini piccoli all'asilo, anche se siete in tanti, non è che occupate poi tutto quello spazio. E stare a stretto contatto con tanti individui diversi è molto importante per lo sviluppo psicologico del bambino. Perché si impara a stare insieme, no? A rispettare le esigenze degli altri. Sì. E si cresce come dei buoni cristiani, che non è mai un male. Ha parlato uno che fa la comunione tutte le domeniche. No, vabbè, ma che cosa c'entra? Dai, i bambini devono avere un'impostazione cristiana, se no subentra il relativismo e Papa Benedetto si inquieta. Oh, io mi inquieto moltissimo. Tito, allora, non fare di pissi al sumino. Zitto. Allora, bambino Lupo Alberto. Di velluto. Bambino Lupo Alberto, avere tanti compagni di classe è un valore aggiunto. Pensa se foste solo in 7 o 8 in classe. Che mortorio, che tristezza, Sì, ma io così non riesco a seguire adesso. Perché? Perché mi distraggo, perché c'è confusione. Noi maschi poi, e siamo tutti cinematografici, no? Come cinematografici? Che ci agitiamo, ci muoviamo continuamente. Ipercinetici. Vabbè, quella roba lì, no? Vabbè. Cosa ti lamenti però, scusa? Tanto adesso arriva il risarcimento del ministero. 2.500 euro puliti in saccoccia. Vabbè. Bambino al bivio. Con quelli paghi tutte le multe del parolacciometro e ne avanzano ancora, Io non sono d'accordo. Ma come no, Drago? È parassitismo italico, ma tipico. Ma guarda che è una sentenza del TAR del Lazio, È TAR della Lazio, eh? Eh? No, dicevo... Che TAR della Lazio, non TAR. È TAR, il centravanti, no? Il centravanti albanese di qualche anno fa. Ma TAR della Lazio. No, è un'altra cosa, bambino Alberto, lascia perdere, capo. No, TAR era un calciatore della Lazio. E allora lui ha capito. TAR della Lazio, invece TAR del Lazio, il Tribunale Amministrativo Regionale. TAR? Era un albanese albino. Ma è albino ancora adesso, albanese albino? È ancora albino. Vabbè, quindi tu sei il bambino TAR. No, ma perché? Ma no! Sì, sei il bambino Alberto, bambino albanese albino. Bambino Tare. Tare. Tiro. Gol! E ora bambini, e tutti a casa. Io pensavo alle aule pollaio, al risarcimento. Secondo te, alla fine, davvero il ministero pagherà 125 milioni di euro alle famiglie dei bambini? Ma non lo so, Elia, sei tu che leggi i giornali. Sì, però i giornali, cosa vuoi che conti quello che scrivono i giornali? Da una mezza notizia ufficiosa ne tirano fuori un pagino. Puoi fare la gallery su internet. Esatto. Io vorrei capire se il Codacons, il ministero, i provveditori, eccetera, staranno dietro a questo caso fino a una sua soluzione o se tutto finirà in un niente come al solito. Ma c'è il bambino Tremonti, coi tempi che corrono, non permette mai di regalare 125 milioni di euro alle famiglie, dai. Oltretutto per dei non meglio chiariti danni esistenziali causati dalle aule affollate. A me sembra la solita bufala mediatica, ci fanno una notizia, se ne parla. E poi c'è la sentenza del TAR del Lazio. Ah beh, se lo dice il TAR del Lazio. Il TAR del Lazio è sempre il TAR del Lazio, come Sanremo è sempre Sanremo. È un grande classico italiano, il TAR del Lazio. Gassman, Mastroianni, il TAR del Lazio. Mi piacerebbe passare una giornata intera insieme a un funzionario di infimo livello del TAR del Lazio, condividere ogni aspetto del suo lavoro, comprendere le dinamiche dell'ufficio che ormai sono cementate da anni di convivenza forzata. Mi piacerebbe vedere i faldoni che maneggia, i software che usa per gestire il flusso di chissà quali dati. Non so nemmeno bene in che cosa consista davvero il lavoro di un funzionario del TAR del Lazio, però... So che mi piacerebbe passare una giornata intera con lui. Matteo Caccia, io sono qui. Cracchiamo DVD, scoreggio DDT, sc- tagliamo souvenir. Souvenir però non va bene. Cracchiamo DVD, quello va bene. Bevete la pipì. Ringraziamo il nostro ascoltatore Tony Landolina che ci manda sempre un sacco di suggerimenti, tra cui ce ne sono anche che non si possono leggere, tipo Nanana Udini, Nanana Nei Suppli, Nanana Ruggini, Nanana Sul Buondì. Insomma, il verbo uno lo può immaginare. Allora, essendo venerdì, dobbiamo salutare e ringraziare anche i bambini Margherita Ina e Carmelo Lauricella. Grazie. Anche i bambini Daniel Plenz e Alberto Caserini. Certo, grazie. Quindi, mandate i vostri nanini alternativi a chiedoasilo e radio24.it. Però anche sulla pagina Facebook del bambino Alberto possono sia aggiungere i loro nanananani che anche suggerire dei nomi alternativi del bambino Alberto, come ad esempio bambino Demon Albarn, bambino Albanberg, bambino Albinoni, in ordine cronologico inverso.